Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Violenze fisiche, sessuali, verbali e psicologiche, la privazione dell'indipendenza economica o la denigrazione dell'identità, tutto rientra nell'atroce casistica delle violenze domestiche, quel tipo di soprusi che avvengono all'interno delle nostre case, che vengono inflitte da coloro che più dovrebbero proteggere il nucleo familiare, uomini che odiano le donne. Siamo di fronte ad un fenomeno sottovalutato ma quanto mai allarmante, a dispetto della società civile ed emancipata che riteniamo di essere. Nei peggiori dei risvolti il dramma si conclude con un omicidio e forse senza precedenti grandi allarmi, un raptus di follia che può partire da dissidi. In Italia ogni 3 giorni viene ammazzata una donna dal suo partner, amico, fidanzato, amante, disilluso o uomo che su di lei pensava di poter esercitare un potere. Questo è un dato di fatto, lo leggete nelle cronache quotidiane. La novità è il punto di vista degli italiani rispetto al fenomeno della violenza sulle donne. La maggior parte degli italiani, un italiano su 3 per la precisione, è convinto che la violenza sulle donne sia un fatto privato, che si debba risolvere entro le mura domestiche. Insomma, i panni sporchi si lavano in famiglia. Un italiano su 5 è convinto che sia accettabile comunque fare degli sfottò a sfondo sessuale a una donna. Ci sta tutto, in fondo. Che male c'è? Non è che questo poi crei lesioni permanenti. Un italiano su 10 pensa che se le donne non avessero abiti provocanti non subirebbero violenza. Uno su 4 è convinto che se una donna continua a restare con il partner che la mena è anche lei colpevole. Su questo ultimo punto anch'io ho qualcosa da dire, ma sì, una donna dovrebbe denunciarlo, dovrebbe smettere di essere comunque una vittima consenziente, muta e consapevole, però bisogna sempre inserirlo nella cornice del fatto in sé, e ogni fatto, ogni storia ha una sua drammatica evoluzione, non sempre facile, possibile denunciare. Beh, questi dati sono emersi da una ricerca stata presentata ieri alla Camera, Rosa Shocking, violenza, stereotipi e altre questioni di genere, realizzata da intervista con il supporto di Ipsos. I dati che sono usciti da questa ricerca sono interessanti, perché noi possiamo quanto vogliamo appoggiarci anche in maniera ideologica, in maniera plateale al fatto che ci sentiamo paladini e investiti anche nella nostra persona della violenza sulle donne. Possiamo dire siamo dalla parte delle donne, possiamo dire che gli atti di violenza sono inaccettabili, sono schifosi, ma in realtà quando ci troviamo in contiguità con un'esperienza di violenza su una donna, la sentiamo dietro il tramezzo del nostro appartamento, qualcuno che sta menando una donna, vediamo la nostra amica, la nostra collega, con gli occhiali scuri e con il fard che si copre i lividi perché qualcuno l'ha menata, e sappiamo benissimo che anche se ci dice che è scivolata, che ha battuto la testa su uno spigolo, questo non è vero. Beh, perché facciamo sempre finta di niente? Non è un fenomeno propriamente mediterraneo, perché in Svezia hanno fatto un esperimento che è terrificante, vedete i filmati su YouTube, hanno messo degli attori, dei figuranti a svolgere le scene molto realistiche di violenza in degli ascensori, in dei luoghi pubblici, e le telecamere nascoste rivelavano che tutti fanno finta di niente, si girano dall'altra parte, se in un ascensore si vede uno che prende la donna e la sbatte sul muro, la prende a schiaffi, la insulta, fanno finta di niente, non si impicciano, non si vogliono mettere in mezzo. Voi come la pensate? I panni sporchi vanno lavati in famiglia? È qualcosa che non ci riguarda? È qualcosa che le donne comunque si vanno a cercare? 800 24 00 24. Ho incontrato mio marito, che ho messo tanto la speranza di fare questa famiglia che desiderava molto. Dopo 2 mesi sono rimasta incinta, già a 19 anni. Lo vedevo che era nervoso, aggressivo su di me. Da questo momento è cominciato il vero incubo. Quando usciva fuori mi chiudeva in casa, rimaneva sola tutto il giorno, aspettavo che lui rientri. Che noia, molte volte, certi ascoltatori. Il dato è che ogni donna ammazzata ci sono 3 uomini uccisi. Parliamo di omicidi, non di omicidi di genere, altrimenti fai il populista, e io da te, Nicoletti, non lo accetto. O se c'è qualcuno che si è massacrato le palle veramente a dire che il termine femminicidio era un termine da prendere comunque nella sua esatta rappresentazione, che sul femminicidio, che sulle donne, sul riprendiamoci il nostro corpo, sulle donne che andavano in piazza contro gli stupri che si svolgevano in certe ville, in certe cene eleganti nei confronti di povere fanciulle che lì non sapevano, che pensavano che andavano a raccogliere margherite, l'abbiamo detto. Però oggi parliamo di una cosa ben diversa. Non mi interessa quanto di populismo si faccia rispetto a questo fenomeno. Il fatto è che in Italia si menano le donne, dentro le famiglie italiane, rispettabili padri di famiglia, integerrimi signori che vedete in grisaglia camminare per le strade, nelle riunioni d'ufficio, negli autobus, nelle metropolitane, ma molto di più molte volte nei salotti televisivi, menano le mogli. Si sa e non si dice. E se voi mai foste stati testimoni di violenza del genere, come vi comportereste? Giovanni. Sì, ciao, buongiorno. Sì. Niente, io volevo dire che secondo me esiste comunque sia sempre una collusione fra vittima e carnefice. Sì, ma chi comincia a menare è il primo a menare. Collusione. Per carità, però esiste un libro di Eric Berne, il padre dell'analisi transazionale, molto famoso. Sì, che è una cazzata. Detto questo, perché lei mette le mani avanti subito a cercare di dire che esista una sorta di complicità nella vittima e non pensa prima a chi comincia a menare le mani? Perché si cerca sempre di assolvere comunque, come dice, ma fai, se hai cercata, gli dava gusto, gli strizzava l'occhiolino, cos'è, un gioco sadomaso in famiglia? Cosa vuol dire con questo, Giovanni? Voglio dire che esiste, sì, una componente. Sì, ma chi comincia a menare è colpevole o no? O lei quando vede un uomo che mena una donna dice, in fondo gli dà gusto, stanno facendo, carità, un setting sadomaso? Un uomo è un uomo che menano, un uomo è un bambino, due bambini, la violenza va sempre comunque condannata. Sì, ma in questo caso parlo di un'altra cosa, parlo della violenza di coppia, di un uomo che mena una donna, picchia una donna, perché non è capace in altre maniere di affermare la sua esistenza o di stabilire un rapporto, solo questo parlo. Gabriella Scarcelli, buongiorno. Buongiorno. Direttore ricerca dell'Ipsos che ha presentato ieri alla Camera dei Deputati questa indagine sulla percezione degli italiani della violenza di genere. Il primo ascoltatore è stato l'esempio che conferma, penso, il suo lavoro e il suo studio. Decisamente bisogna fare un passo indietro rispetto all'interpretazione dei risultati. Il passo indietro è quello della considerazione del contesto culturale all'interno del quale noi ci muoviamo. Come diceva bene la frase in apertura della vostra trasmissione, effettivamente noi ci troviamo in una situazione all'interno della quale, pur essendo un paese occidentale mediamente civilizzato, scontiamo un po' un ritardo culturale oltre che normativo rispetto alla figura che della donna si ha nell'ambito della nostra società, che è una figura sostanzialmente ancorata ad uno stereotipo molto legato agli anni 70 e anche vorrei dire agli anni 50, ossia legato a logiche di accudimento, a logiche di caregiving e tendenzialmente con una posizione subordinata rispetto all'uomo. E ovviamente, cioè la donna badante che in fondo sta in casa, deve fare le sue cose. Sì, fondamentalmente legata alla cura dei figli, degli amici, quindi semplicemente legata a un ambito familiare piuttosto che... Vabbè, era l'immagine, diciamo, stereotipata ma lanciata a tutte le pubblicità, Carosello era il trionfo della donna felice dietro ai fornelli, che per farla contenta le si regala un frullatore, una lavatrice. Infatti, è proprio questo, cioè da lì sostanzialmente ci siamo mossi veramente molto poco in questi anni, ed è ovvio che se noi siamo la nostra storia, è evidente che le radici di tali convinzioni poggiano anche su un certo ritardo culturale oltre che normativo. Se consideriamo soltanto che l'abolizione delle attenuanti sul diritto d'onore è dei primi anni 80 e la legge sulla violenza sessuale è stata cambiata solo alle soglie del 2000, per la precisione nel 96, e quindi evidentemente in questo quadro dove proliferano i disallineamenti socioculturali riguardo le tematiche di genere, ci sono anche luoghi comuni attraverso, come diceva lei, l'uso strumentale che della donna si fa nella vita quotidiana, ad esempio nella comunicazione pubblica. Quindi di fatto è il quadro che consente di interpretare i risultati di questa ricerca, che sono per certi versi oggettivamente preoccupanti, proprio in funzione del fatto che, come diceva lei, e anche rispetto all'intervento del primo ascoltatore, c'è quasi un atteggiamento autoassolutorio da parte degli uomini. Infatti l'analisi più interessante è proprio la differente percezione degli uomini e delle donne rispetto a questo fenomeno. Sì, è un antico assioma, diceva la vecchia quando incontra incontra Zarathustra, se va dalla donna portati la frusta, perché non chiede di meglio che tu la picchi, qualcosa del genere, perché fa parte del rapporto. Ferma un attimo, Mario, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì, ascoltavo la sua trasmissione, mi è venuto in mente un episodio di parecchi anni fa, parlo di 30 anni fa, ero giovane. C'era un tizio, tra l'altro un personaggio, una persona importante, che regolarmente... Un noto, scusi, personaggio, un noto personaggio. Sì, sì, sì, sì, un noto personaggio. Allora abitavo in condominio e quindi sentivo dall'altra parte quello che succedeva di là dal muro, insomma. Costui aveva l'abitudine di picchiare la moglie regolarmente. Ecco una cosa, ma per capire, se un uomo picchia una donna è inequivocabile, sì, quando la picchia, non è una litigata in famiglia, no, si capisce? No, no, la picchiava, il giorno dopo veniva fuori con due occhi neri, con masso, oppure non veniva proprio fuori perché era stata battuta in maniera pesante, cioè, con violenza in buona sostanza. Un giorno non ne ho potuto più, sono andato di là, ho suonato il campanello, gliele ho date di santa ragione. A lui? L'ha gonfiato. Ah sì, sì, l'ho massacrato di botte. E come è andata a finire poi? È andata a finire che di lì a... Beh, non l'ha più picchiata, non l'ha più picchiata per un mesetto e così via, dopodiché si è trasferito altrove. È andata a picchiarla altrove. Oddio, non è questa, la prendo come testimonianza, è chiaro, non sì, è questa la soluzione. La soluzione è avvertire chi si dovere. Nicolina, buongiorno. Buongiorno, dottor sì. Nicoletti. Senta, io abito a fianco a due gay. Io premetto. Ma l'hanno scritto sulla porta, come fa a saperlo? Perché li vedo. Vabbè, li vedi, c'è scritto. È una coppia. Due uomini vivono assieme, sì. Assolutamente sì, perché io premetto che non è che ho telefonato perché sono gay, ma proprio perché litigano spesso come fanno una coppia. Ma si picchiano. Guardi, io ho avuto questa percezione. Ma si picchiano o no? Cioè uno picchia l'altro. Ho sentito piangere, ho sentito, probabilmente sì, ho sentito mobili spostarsi, cadere, cioè rumori molto... È solo che io e mio marito non sappiamo cosa fare quando sentiamo così. Una volta... Capita spesso che litigano comunque, fanno... Insomma, abbastanza. Una lite è stata pochi giorni fa. Diciamo, voi la televisione la tenete spenta, naturalmente, perché a casa vostra avete il teatro oltre la porta, non è che... Quindi, sono belle serate. Sì. Ma avete l'impressione ci sia uno più debole che subisce le botte dell'altro? Cioè, esatto. Esce con dei segni questa persona, se c'è qualcuno che subisce la violenza... Guardi, dottor Nicoletti, loro escono la mattina abbastanza presto. E non fate in tempo a alzarvi per vedere come escono? Sinceramente no, perché sono anche molto discreti. È solo che appunto quando sentiamo così io sono angosciata. Ma poi fanno la pace oppure continuano sempre a picchiare? Probabilmente sì. Lei ride. Però lei ascolta anche quello? Non lo so. No, io guardi che io non ascolto perché io ho la televisione accesa, guardiamo i nostri programmi. Ma non è quello. Però sente il rumore. Cioè lei vuol dire, la sua domanda è provocatoria. Se è una coppia gay che facciamo? Allora... Due uomini, se litigano, sono fatti loro. Se litigano e turbano la quiete del vicinato, avvertite l'amministratore del condominio. Se la mattina esce qualcuno con i segni evidenti delle botte, o capite che qualcuno prende le botte, è un essere umano che subisce botte, bisogna agire come se fosse... Esattamente, non vedo qual è il problema. Lo so. Mica perché uomo un altro può picchiarlo, che vuol dire? Se qualcuno picchia qualcun altro è comunque un reato, è un atto di violenza. La sta portando fuori dal seminato, mi rendo conto, la sua telefonata vuole essere provocatoria, ma io sto parlando di donne picchiate in un rapporto di coppia aperta, chiusa, ipotetica, virtuale, benedetta da Santa Romana Chiesa, non so esattamente quale sia. Comunque una donna subisce violenza da parte di un uomo. L'atteggiamento medio di italiano è quello di indifferenza, sono fatti loro. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, parliamo di atteggiamento nei confronti di un testimone o di qualcuno viene a sapere di violenza sulle donne, da una ricerca dell'Ipsos dimostra che gli italiani sono abbastanza indifferenti o tendono comunque a contestualizzare la violenza nei confronti delle donne come qualcosa che ci può anche stare, o comunque meglio non mettere il dito fra moglie e marito, o fra fidanzati, amanti o presunti tali. Giovanna, buongiorno. Giovanna è caduta? No, c'è, cioè, Giovanna. No, sono qua, sono qua. Ecco. Buongiorno. Sì. Senta, io sono 20 anni che, diciamo, ho cercato di superare la cosa con il silenzio, perché le istituzioni non ti aiutano. 20 anni, cosa è successo per 20 anni? Allora, 20 anni fa mio marito ha incominciato ad usare violenze e minacce, anche con facendo segni col dito vicino alla gola. Ma non picchiandolo? Ma anche, qualche volta, ma non sempre. Però danni psicologici, mi ha incendiato una macchina. Mi chiedo scusa. Ma stavate assieme, continuate a stare assieme? No, però abitavamo nello stesso palazzo. Ah, non stavate più assieme? No. Una casa di separazione. Ah, una casa di separazione, sì. Poi mi ha bucato le ruote dell'auto. Però lo faceva sempre di notte. Per cui... Vabbè, questo è, posso dire una cosa adesso? Non voglio adesso, mi rendo conto che è una cosa che ancora le fa male. Queste sono le dispute fra persone separate, che hanno tutta un'altra fattispecie. Io parlo del periodo, periodo in cui suo marito la menava, questo mi interessa. Che poi dispetti facevate durante la separazione è un'altra cosa. Guardi, quando uno usa le mani è evidente, va bene, allora tutti se ne accorgono, ma quelli che fanno questo che io gli ho detto è più subdolo, perché ti porta al, come devo dire, all'annientamento psicologico. Sì, però ho capito, questa è una cosa. Però io quello che ho chiamato. Capire, non so, sembra che sia uno violento, io che non la voglio fare. Questo riguarda il magistrato a cui lei denuncia questo atto. Sì, ma io non capito, posso, se non vedo suo marito che le buca la ruota, non so cosa dirle. Ho capito, va bene. Io se anche lo vedo, rivolta. È no, un atto di teppismo, non di violenza. Le chiedo scusa, sì. Però mi sono rivolta anche alle forze dell'ordine, i quali all'interno della stazione di un paese ce ne sono i carabinieri, i quali, sai che cosa mi hanno detto il maresciallo dei carabinieri? Signora, ma lei perché non pensa di andarsene? Ho dovuto rivolgermi al paese a fianco dove c'era una stazione di polizia. Ha capito? È una delle tante cose che non sì, ti... sì, è una tante cose che possono accadere. Una tante cose possono accadere. Io ripeto, comunque, questo non deve far desistere dal fatto che un testimone di violenza, lei è la persona coinvolta, un testimone di violenza nei confronti di una donna, deve, secondo me, se io sento nell'appartamento accanto urla e botte, chiamo la polizia e dico qualcosa sta succedendo qui accanto. Non mi faccio i fatti miei, perché probabilmente preferisco che il giorno dopo mi dica al vicino fatti tuoi, piuttosto che rischiare che qualcuno ci rimanga secco semplicemente perché io ho fatto finta di non ascoltare. Ritorniamo con Gabriella Scarcelli, che ricordo che è il direttore delle ricerche dell'Ipsos, che ha appunto presentato ieri questa ricerca di cui stiamo parlando. Vediamo un pochino di comprimere, se è possibile, di arrivare a una conclusione. Abbiamo capito che l'atteggiamento indifferenza ha radici molto antiche, molto lontane, in una considerazione della donna subordinata che oggi poi non è più nella realtà, e quindi c'è una sorta quasi di rivalsa maschile. Ci sono altri elementi interessanti sono usciti da questa ricerca, anche alla luce di quello che ha sentito lei, che è il medio sentire del pubblico italiano, ecco. Esatto, direi che per quanto riguarda diciamo il medio sentire va fatta una precisazione. Noi abbiamo voluto, come giustamente lei sta facendo, sottolineare quello che è sostanzialmente lo zoccolo duro della violenza sulle donne, della percezione sostanzialmente subordinata della donna rispetto all'uomo. È evidente comunque che la società è evoluta e quindi, come dire, non vorrei che passasse l'ipotesi che tutti gli uomini fanno così o che sostanzialmente tutti si voltano dall'altra parte. Abbiamo detto uno su tre. Sì, esattamente. Beh, quindi non diciamo è poco. No, non è poco, assolutamente no, infatti è un elemento che è allarmante, che va sottolineato e va sottolineato con forza, perché evidentemente, come diceva lei, cioè i giornali sono pieni di notizie che riguardano violenza sulle donne. Non sai che siamo tutti bravi a scendere in piazza e dire siamo contro la violenza, è chiaro. Assolutamente, facile. Assolutamente, questo è assolutamente vero. Un dato interessante, quello che mi chiedeva lei, è capire che cosa viene considerato come violenza, e forse anche questo ha radici nel nostro vissuto culturale. È evidente che noi nel momento in cui abbiamo sottoposto la domanda abbiamo inserito provocatoriamente anche delle, diciamo, degli atti che sono sostanzialmente legati alla rispetto, al mancato rispetto in sé della persona, quindi uccidere, stuprare, dare schiaffi eccetera. Però la cosa interessante è che, come diceva lei inizio trasmissione, ci sono sostanzialmente degli zoccoli duri di delle sacche sostanzialmente culturali all'interno delle quali permane ancora una sorta, vorrei dire, di scanzonato macismo all'italiana. E cercheremo per quanto possibile di condizionarlo diversamente, nei limiti che possiamo farlo noi poveri maschi perfettibili. A presto.